وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Non ponemmo che angeli a guardia del fuoco, fissando il loro numero solo per tentare i miscredenti, affinché credessero con fermezza quelli cui è stato dato il libro e aumentasse la fede dei credenti, e non dubitassero coloro cui è stata data la scrittura e i credenti, e affinché coloro che hanno un morbo nel cuore e i miscredenti dicessero: «Cosa vuol significare Allah con questa metafora?» È così che Allah travia chi vuole e guida chi vuole. Non conosce le truppe del tuo Signore altri che Lui. Questo non è altro che un monito per gli uomini. Kalla wal qamar. No, per la luna. Wal layli idh adbar. Per la notte quando volge al termine. Was subh idha asfar. E per l'aurora quando si mostra. Innaha la ihda al kubar. Il calore è davvero uno dei segni più grandi. Nadhiran lil bashar. Un monito per gli uomini. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Per chi di voi vuole avanzare nella fede o indietreggiare. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ogni anima è pegno di quello che ha compiuto. Illa ashab al-yamin. Eccetto i compagni della destra. Fi jannatin yatasaalun. Saranno nei giardini e si interpelleranno a vicenda anil mujrimin. A proposito dei colpevoli. Ma salakakum fi saqar. Cosa mai vi ha condotti al calore che brucia? Qalu lam naku minal musallin. Risponderanno: non eravamo tra coloro che eseguivano l'orazione. Walam naku nut'imul miskin. Né nutrivamo il povero. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. E chiacchieravamo vanamente con i chiacchieroni. Wa kunna nukazzibu biyawmiddin. E tacciavamo di menzogne al giorno del giudizio. Hatta atana al-yaqin. Finché non ci pervenne la certezza. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Non gioverà a loro l'intercessione di intercessori. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Ma perché mai si scostano dal monito? Ka'annahum humurun mustanfira. Sembravano onagri spaventati. Farrat min qaswara. Che fuggono davanti a un leone. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara. Ciascuno di loro vorrebbe che gli fossero dati fogli dispiegati. Kalla bal la yakhafuna al-akhira. No, non hanno invece alcun timore dell'altra vita. Kalla innahu tadhkira. No, in verità questo è un monito.